Letture di Radio 24. Nel 2003 Sergio Endrigo torna in sala di incisione, a 10 anni dal suo ultimo disco. Il nuovo album si intitola Altre emozioni e contiene nuove interpretazioni di alcuni dei suoi più grandi successi, assieme ad una canzone inedita, quella che appunto dà il titolo all'album. La composta per lui Vincenzo Incenzo, un musicista che aveva già scritto, tra gli altri, per Renato Zero, Ornella Vanoni e Lucio Dalla. Altre emozioni sarebbe stata però l'ultima canzone di Endrigo, scomparso il 7 settembre del 2005. Nel suo libro La canzone in cui viviamo, una guida alle 100 canzoni più significative della musica italiana, Incenzo ricorda il suo incontro con Endrigo e la nascita del brano Altre emozioni. Sergio parla svelto, salta di palo in frasca. Vuole assolutamente ricordarsi una vecchia barzelletta. La inizia, la perde, la maledice. Il suo ghigno scavato nella faccia è la polaroid ingiallita di isole meravigliose brasiliane, ma anche di fumosi sottoscala di una città qualunque. Il suo problema all'udito non gli permette di sentirmi facilmente. Mi avvicino, parlo più forte. Lui scherza, dice che è sordo ma non ancora rincoglionito. Sergio è a suo agio con me e questo primo nostro incontro al tavolino di un bar in Piazza Mazzini si prolunga, parlando di tutto e di niente, mentre Roma si colora di un rosso porpora tenue. Sergio tira fuori dalla tasca della giacca un appunto battuto con una vecchia Olivetti, tutto in minuscolo. È il testo di Altre emozioni, l'ultima canzone che canterà. Dopo 15 anni di silenzio, ecco una nuova poesia, una promessa disperata e disarmante, dolce come una foglia che cade e dura come la roccia. Un augurio appassionato, una dichiarazione di intenti a questo maledetto destino. Altre emozioni verranno, te lo prometto, amica mia. Altre emozioni verranno, te lo prometto, amica mia. Mi parla del suo testo con un amore infinito, ma cerca di minimizzare la sua emozione. Dopo tanto tempo la sua vena si è risvegliata ed è felice come un ragazzo che ha scritto la sua prima canzone. Mi porge il foglio, mi accenna con un filo di voce le prime note, con quel suo cantilenare sbilenco che arriva subito allo stomaco e al cuore. Mi propone di sviluppare quella sua intuizione e di comporre tutta la musica per quelle parole che sente così fortemente. Gli chiedo perché proprio io, che generalmente sono chiamato a scrivere testi e non musiche. Lui mi dice che si fida della mia sensibilità, che è sicuro che verrà fuori una bella cosa. Poi restiamo in silenzio. Lui gioca col bicchiere, si volta a guardare Roma che si sta spegnendo, poi torna assorto a guardare il fondo del bicchiere. Ci salutiamo mentre la piazza diventa buia e deserta. Lo vedo allontanarsi come un naufrago, con quella sua precarietà che ti fa venire l'istinto di soccorrerlo. Ma lui è già tra i fari del Lungotevere, assorto nella sua malinconia. Ed eccomi nella mia stanza, davanti al pianoforte, con il testo di Sergio sul leggio. Sono tornato a casa lentamente, a piedi, con qualcosa che si muove nel cuore. Ho incontrato un uomo che con le sue poesie d'amore mi ha fatto piangere e con le sue filastrocche ha colorato i giorni della mia infanzia. Io voglio trovare il modo per rendergli grazie di tutto questo e per la fiducia che ora nutre nei miei confronti. Una nuova canzone di Endrigo sta per nascere dopo tanti anni e mi chiede aiuto per venire alla luce. È un'emozione che non scorderò mai nella vita. Chiudo gli occhi. Nessuna analisi, nessun ragionamento, solo quelle parole e le mie mani sui tasti bianchi e neri come una traduzione dal pensiero al suono. E siamo arrivati fin qui un po' stanchi e affamati di poesia. Do maggiore, fa maggiore, la minore. Siamo arrivati fin qui un po' stanchi e affamati di poesia. Appena le parole si immalinconiscono, leggo a voce alta e la musica già c'è, fluida, naturale. Basta rispettare le parole. Le mie mani si spingono sugli accordi, le parole si fanno energiche. Abbiamo attraversato i deserti dell'anima, i mari larghi e calmi della solitudine. Abbiamo attraversato i deserti dell'anima e i mari grigi e calmi della solitudine. Ho bisogno di una sterzata. Vado deciso in la bemolle, si bemolle, do minore. Abbiamo scommesso sul futuro. Ecco l'accordo di do minore diventare maggiore e ossigenare la melodia. Tutto accade in pochi attimi. Così come in pochi attimi ci si può commuovere o innamorare. Chiamo Sergio che è quasi notte. Gli dico che ho già qualcosa da fargli ascoltare. Lo sento sorpreso, emozionato, come qualcuno che non si aspetta tante attenzioni, e mi viene da piangere. Così scoppio in una risata di imbarazzo. Guardo fuori dalla finestra in cerca di un appiglio per uscire dall'impasse. I balconi accesi lasciano scivolare nel cortile odori di cena e voci di telegiornali. È successo tutto in così poche ore. Il nostro incontro, le sue parole, la sua musica, la canzone tutta. Il mio nome legato al suo, con il proposito di mille altre canzoni insieme. Soltanto qualche giorno dopo mi avrebbe parlato di una canzone da dedicare a Napoli, città che amava profondamente. Sergio era ripartito, voleva cantare mille nuove cose. E invece quella prima canzone insieme era anche la sua ultima canzone. Sergio, Sergio, poeta dimenticato. Dolce Sergio, così discreto, così ironico, così malinconico. Sergio che si stupì al tavolino in Piazza Mazzini perché una signora gli chiese l'autografo. Ora sono qui, al Campidoglio, davanti al suo feretro. Poche silenziose presenze, un disegno coloratissimo di bambini sulla sua bara, un piccolo diffusore che manda le sue canzoni nella stanza. Penso al boicottaggio nei suoi confronti da parte di critici e discografici, all'ipocrisia dell'industria disco alla quale si era arreso, alle facili lacrime di coccodrillo di tutti. Penso al nostro pomeriggio romano, alle barzellette che non ha fatto in tempo a ricordare, al suo sguardo inclinato e solo. Penso ai miei primi giorni di scuola, quando nell'aria riecheggiava quel bellissimo inno alla vita, ci vuole un fiore. Penso al regalo che mi ha fatto la vita, di darmi il tempo di entrare con la mia musica nelle sue parole. E nel silenzio ostinato della camera ardente mi torna alle orecchie la tua voce, Sergio, tenera e disperata, storta e sottile, che al telefono, in un nebbioso mattino, mi dici: Vincenzo, la nostra canzone è bellissima. Avete ascoltato la lettura di alcune pagine dal libro di Vincenzo Incenzo, La canzone in cui viviamo, 101 viaggi nella scrittura cantata italiana. No Reply Editore, 304 pagine, 12 euro.